9 in punto, la versione di Oscar. Buon venerdì 6 agosto, cari ascoltatori, buon fine settimana. E mentre i giornali italiani continuano a interrogarsi sui punti che vedremo sviluppati nell'approfondimento della crisi politica alla ripresa dopo agosto, c'è chi annuncia, come La Stampa oggi, secondo me con un certo ottimismo, il premier piano in 4 punti. Noi invece approfittiamone per andare a una riflessione su un punto di fondo davvero, al di là delle chiacchiere della politica che tradisce i suoi impegni e le sue promesse. E il punto che vogliamo affrontare oggi è uno dei punti più rilevanti che ci è consegnato dall'ultima fase della crisi, che proprio 3 anni fa sui mercati mondiali diede i suoi primi segni, sui mercati finanziari, per poi avere una seconda fase da settembre del 2008, ricordate tutti, col fallimento di Lehman Brothers. In poche settimane il commercio mondiale, il motore della crescita, che cadeva a doppia cifra e cadde addirittura con volumi superiore al 60% prima di poi iniziare a riprendersi, diciamo a metà del 2009, la ripresa internazionale, e poi nel 2010, dalla seconda settimana di gennaio, alcuni mesi di paura profonda, perché quel terzo capitolo della crisi si chiamava e si è chiamato crisi dell'eurodebito. E nella crisi dell'eurodebito, oltre al venir meno di alcune sicurezze profonde, prima quello che l'euro era uno scudo e non una gabbia, secondo toccare con mano che alcuni paesi truccavano anche nell'ordine del 10% il proprio deficit, e che quindi questa certezza dei criteri europei era una certezza un po' più italiana di quanto immaginassimo, terzo soprattutto toccare con mano che la Germania, il paese leader, il più grande esportatore dell'Unione Europea, quello che ha in attivo la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale, la Germania aveva cambiato idea sull'Europa, e di fronte al rischio dei paesi più esposti, non solo la Grecia ma la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, per sorpresa non troppo l'Italia, però diceva no, noi non siamo tedeschi disposti più, come la generazione dei nostri padri, come Helmut Kohl, a una scommessa sulla solidarietà e sul sostegno a strumenti multilaterali per soccorrere i paesi in difficoltà, come non siamo stati favorevoli nell'anno precedente a piani di settore europei davvero per alcune emergenze comuni, per esempio l'industria dell'auto. Questi tedeschi ricordano tutti che nella loro Costituzione, nel loro Grundgesetz, ci sono dei vincoli espliciti. Solo passando per un voto del Parlamento tedesco c'è un'autorizzazione per un aiuto che deve essere di volta in volta specificamente individuato ad hoc per questo o quel paese, per questo o quell'impegno. E quindi questo freno all'idea europea che ci fossero strumenti comuni, un fondo monetario europeo e politiche di settore, è stata la vera sintesi della crisi del 2009 e della crisi dell'eurodebito del 2010. Su questo sfondo, che è uno sfondo che consegna un futuro dell'euro per nulla al riparo dalla ripresa delle crisi degli spread dei titoli pubblici europei, e per nulla rassicurato dal fatto che la posizione tedesca è rimasta coriacea, ed è questa che vi ho sintetizzato, allora due osservatori che da sempre hanno per la politica europea e per la politica estera italiana attenzione, hanno fatto un libro che io vi invito a leggere, perché è un libro molto secco, perché sono in tutto 125 paginette, in cui si affrontano come non avviene regolarmente nei dibattiti pubblici italiani, cioè dicendo pane al pane e vino al vino, senza girarci troppo intorno, sostenendo due punti di vista molto distinti ma con grande chiarezza nel loro confronto. E partono dall'interrogativo che è il titolo del libro: l'Europa è finita? ADD è l'editore, sono 10 euro ben spesi per quello che mi riguarda, compratelo. E noi abbiamo chiesto ai due autori di venire qui a ripresentare i loro argomenti, perché da una parte alla domanda l'Europa è finita, titolo del libro, Enrico Letta, che è il vice segretario del PD, sostiene che no, invece al contrario, proprio questa ennesima innegabile crisi ci obbliga, ci consegna un futuro nel quale finalmente riusciremo a immaginare un'Europa politica. Vedremo come la immagina Enrico Letta. Non è un'Europa politica priva di significativi cambiamenti rispetto all'attuale, perché anche Enrico Letta ammette che l'attuale non funziona, non c'è. E poi invece alla tesi di Enrico Letta risponde alla tesi di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, che con grande realismo, io devo dire che mi trovo molto più vicino a Lucio Caracciolo, dice caro Enrico Letta e cari europeisti di facciata, E a furia di scommettere sul funzionalismo europeo, sul fatto che ogni crisi ci fa fare il salto avanti, noi in realtà la politica europea non ce l'abbiamo. E la differenza è che la mancanza di una politica europea ha fatto entrare in crisi anche le politiche nazionali e siamo oramai sospesi tra due cose che non funzionano. E poi ogni volta augurarsi una crisi, insomma, a me le crisi fanno paura. Io penso che Lucio Caracciolo, fine della mia introduzione, parli a nome non solo di molta paura di pancia degli elettori dell'opinione pubblica italiana, ma in realtà di tutti i paesi europei, ma che in realtà ponga un problema politico molto rilevante, perché a furia di immaginare che con la moneta comune veniva la politica non c'è, e la moneta comune, come si è visto, è una moneta forse troppo comune rispetto a paesi che hanno caratteristiche economiche e curve di costi sottostanti troppo diversificate per reggere insieme in un tasso di interesse comune che a quel punto ha effetti molto diversificati in economie diversificate. Comunque hai questi due osservatori che ringrazio di essere qui, sì, noi aggiungiamo la nostra guida di sempre per tutto ciò che riguarda l'Europa, cioè Adriana Cerretelli, la corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Questi sono i nostri tre ospiti, rapidamente li faccio salutare e poi cominciamo. Grazie Enrico Letta, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie di questa occasione. Grazie a Lucio Caracciolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. E un saluto calorosissimo ad Adriana Cerretelli. Grazie Adriana, buongiorno. Buongiorno. Allora, possiamo cominciare dall'accusato, cioè dal, insomma, la posizione più difficile è quella di Enrico Letta, perché ci deve convincere che tutto quel che si immagina e si ripete ora avverrà. E perché dovrebbe avvenire? Che l'Europa politica riusciamo a farla? E oltretutto spieghi anche come, perché lei immagina un'Europa a due gironi, per così dire. Ma mi ha colpito la sua introduzione, perché la sua introduzione, Giannino, oggi è... ha particolare significato. Oggi è il 65esimo anniversario dello sganciamento della bomba su Hiroshima, cioè la fine della seconda guerra mondiale. Quando si parla di Germania, oggi viviamo una differenza netta tra la Germania di oggi e la Germania che ha fatto nascere l'euro. Quella era la Germania della generazione dei Kohl, cioè la generazione dei tedeschi che pensavano che era dovere morale loro e di tutti i tedeschi ripagare l'Europa di tutte le sofferenze che nel Novecento, in particolare con il nazismo, hanno inferto all'Europa. Oggi c'è alla guida della Germania una generazione che non ha più quel dovere morale, una generazione più giovane, che quindi si approccia all'Europa in modo del tutto diverso. Questo cambia anche le coordinate che ci riguardano, quindi l'Europa non può più essere, in questo senso io penso anch'io che la retorica europeista classica debba lasciare da parte che cosa? Il senso profondo dell'interesse, cioè soltanto se trasferiamo a tutti i cittadini europei, tutti, sia quelli dei paesi che hanno più vantaggio dallo stare in Europa, sia da quelli che invece pagano un po' dallo stare in Europa, il senso dell'interesse. E la mia tesi è che la crisi ha rimodulato completamente gli equilibri mondiali, il G8 è stato messo in crisi, è nato un G20 che fa molta fatica a trovare la sua identità. Il rischio grande, questa è la tesi, è che da tutto questo nasca un G2, le due grandi potenze del secolo che è appena cominciato, Stati Uniti e Cina, si mettano insieme sostanzialmente sulla base della forza, decidano, della forza economica, decidano e poi ci comunichino le loro decisioni. Noi possiamo stare dentro questi processi decisionali come europei e non essere soltanto il museo del passato, se ci mettiamo insieme. Quindi c'è un interesse fortissimo che questa crisi ha definitivamente spiattellato davanti a noi. In fondo, quando c'era il G8, del G8 quattro europei e mezzo, perché poi insomma ci sono anche i russi di mezzo, quattro europei e mezzo ne facevano parte ed era difficile non considerare quello il luogo nel quale si risantificava la centralità dell'Europa nel mondo. Questa centralità non c'è più, o ce la riconquistiamo, e l'essere uniti è fondamentale. Come lei mi chiedeva, e cerco di essere in questo sintetico, come innanzitutto sapendo, ecco, passaggio fondamentale, che l'euro è stata la nostra salvezza. Sì, l'euro ha vissuto momenti di crisi, ma i paesi europei che hanno l'euro si sono salvati dalla crisi grazie all'euro. L'Italia è uno di questi. Ricordiamoci che cosa è successo a paesi, penso al caso dell'Islanda, che sono andati in bancarotta, o, o altri paesi, la stessa Grecia in fondo è fuori dalla bancarotta grazie all'euro e grazie alla solidarietà europea. Quindi l'euro è stata una scelta importante, utile. Oggi il passaggio successivo quale deve essere, a mio avviso? Deve essere quello di fare il salto dentro l'Europa unita. Dentro l'Europa unita vuol dire intanto la politica. Io dico basta questa logica nella quale non si sa chi è il leader europeo. Mettiamoci la democrazia, arriviamo a eleggere direttamente con le opinioni pubbliche dei diversi paesi che si mescolano tra di loro un leader politico europeo che sia in grado di parlare con Obama e con il presidente cinese allo stesso livello. Noto nel libro che Obama non è ancora venuto a Bruxelles e non è ancora venuto a Bruxelles perché ritiene probabilmente più utile per lui parlare con il presidente francese, il presidente tedesco e al limite col premier britannico sulle questioni europee, piuttosto che andare a cercare di capire chi è tra Van Rompuy, Barroso e il presidente del paese che stiamo, o Lady Ashton, o addirittura il primo ministro belga, perché oggi il semestre europeo è guidato dal paese più in crisi d'Europa, cioè il Belgio. Quindi una confusione che non può reggere. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato economico. Oggi abbiamo tra i paesi dell'euro 16 oggi, domattina 17 con l'ingresso dell'Estonia, 17 leggi finanziarie europee, leggi di bilancio europeo, scoordinate tra di loro. Passiamo a una legge finanziaria europea, vera, dalla quale poi dopo i singoli paesi derivino singole scelte di bilancio che stiano dentro una logica comune sul fisco, sul welfare, perché avere una unica moneta e poi essere totalmente scombinati sulle altre cose porta degli squilibri che sono difficilmente gestibili. Terzo passaggio, creiamo un fondo monetario europeo, cioè una struttura che possa accompagnare i paesi in difficoltà dentro la gestione della moneta e dell'economia europea, a partire dall'elemento più basilare. Mettiamo insieme le statistiche. Quello che è la crisi in Europa per l'eurodebito è partito dal fatto che l'Istituto di Statistica greco, gestito da greci, è stato messo sotto pressione dai governi greci che gli hanno chiesto di trasmettere dati sbagliati. Se ogni istituto di statistica nazionale fosse presieduto non da un rappresentante del paese nel quale quell'istituto ha sede, ma fosse gestito da un direttore che viene da fuori, adesso non voglio sembrare una critica al nostro Enrico Giovannini che è un'ottima persona, esatto. Un ottimo, però non a caso Enrico Giovannini viene da fuori, Enrico Giovannini viene dall'esperienza dell'Ocse, è un funzionario internazionale, non è un italiano, ed è stata una scelta molto felice che secondo me questo governo ha fatto. Ma credo che il punto chiave di creare istituti di statistica oggettivi, che non ci sia la pressione dei governi nazionali, perché i governi nazionali sotto la pressione di una politica che guarda purtroppo a elezioni in ogni paese, ogni momento, a pressioni immediate, rischia di fare delle scelte che non stanno poi in una logica complessiva. In sintesi, o noi facciamo questo passo adesso, partendo dall'idea di quello che è successo, la crisi come c'è stata e i passaggi che abbiamo davanti, di fronte, oppure difficilmente l'Europa terrà il passo di americani e cinesi. E la piazza di Atene che bruciava ha avuto un effetto sulle leadership europee e sulla opinione pubblica europea molto maggiore di decine e decine di defatiganti e pallosissimi vertici europei, conferenze intergovernative in cui, cesellando sull'ordine dell'articolo tale del trattato, dell'articolo tal altro del trattato, ci si è alla fine infilati in una condizione in cui o arrivava il dramma di Atene oppure certe scelte, tipo l'affacciarsi del tema Eurobond e quindi gestione in attivo di una politica potenziale, perché è tutto da costruire, ma si è affacciato questo tema, io lo considero un fatto positivo, di crescita europea, tutte questioni che riguardano tutti noi europei, noi italiani ancora di più, perché o c'è quella dimensione oppure noi italiani non saremo mai più potenza nel mondo, come lo siamo stati nel Novecento, dove siamo stati un grande paese perché il mondo era piccolo. Oggi che il mondo è diventato grande, siamo un paese medio e o stiamo dentro una dinamica europea unita e forte e allora conteremo ancora nel mondo, ma pensare noi di contare da soli nel mondo non ce lo possiamo permettere, come non ce lo possono permettere, secondo me, né francesi né britannici e alla fine nemmeno i tedeschi da soli oggi. Allora, io modestamente passo la palla a Lucio Caracciolo, osservando che a me l'effetto della perorazione degli argomenti dell'onorevole Letta continuano a sembrare quelli di o facciamo questo oppure andrà peggio, e però la storia dimostra che può andare peggio, mentre la domanda mia che resta senza risposta è quella: che cosa ragionevolmente può indurci a far credere che appunto i tedeschi, per sintetizzare, dovrebbero tornare a ragionare come la generazione dei padri fondatori, invece che ragionare dicendo: sentite, noi i conti nostri li abbiamo in ordine, noi siamo molto competitivi, noi esportiamo, sapete che c'è, noi difendiamo queste robe e di pagare per voi non ci abbiamo voglia. Che questa visione sia mio, che non tutti i paesi europei possano puntare su una crescita solo sull'export e bisogna invece sostenere i flussi interni del commercio, che sono poi 2/3 dei flussi commerciali europei, aiutando chi sta un po' meno bene a esportare e di più con consumi tedeschi, quindi sostenendo la domanda interna. Questo lo possiamo sostenere, ripetere, augurarcelo, però poi alla fine, se fossimo tedeschi, io ragionerei come i tedeschi, devo ammettere che sinceramente lo dico. E allora la risposta alla mia domanda, cosa concretamente ci può indurre a credere che avvenga questo scatto, io ancora non la vedo, e quindi temo che forse gli argomenti di Caracciolo, che non è un antieuropeista, ci mancherebbe, lo conosciamo, che però sono fondati sulla categoria del realismo, io credo che facciano una certa breccia nell'opinione pubblica. Caracciolo, prego. Ma intanto io non penso che la Germania di ieri fosse la Germania normale. La Germania di ieri, ricordiamolo, era la Germania divisa, sostanzialmente satellite delle potenze che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. La Germania normale, quella con cui facciamo i conti oggi e quella con cui faremo i conti anche domani e dopodomani, è questa. E con questa dobbiamo regolarci, ed è perfettamente normale che i tedeschi difendano i propri interessi, così come noi cerchiamo di difenderli, o dovremmo cercare di difenderli, o così come lo fanno gli estoni o i greci. Non c'è nulla di straordinario in questo e non credo che dobbiamo in qualche modo accusare i tedeschi di fare i tedeschi. Vorrei anche ricordare, così per la storia, che l'euro non è stato fatto dai tedeschi, ma contro i tedeschi. La grande maggioranza dei tedeschi, quando fu varato l'euro, era contraria all'euro, così come oggi ancora una buona parte dei tedeschi rimpiange il marco. Perché mai i tedeschi hanno ceduto il marco, che non era semplicemente la loro moneta nazionale, ma era sostanzialmente un simbolo di identità e di successo, il riscatto della Germania dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale? Beh, l'hanno ceduto essenzialmente perché era il prezzo che dovevano pagare agli altri europei per la riunificazione, è quello che soprattutto i francesi, ma anche noi italiani, abbiamo chiesto ai tedeschi come prova della loro europeità. Un'idea poco intelligente, secondo me, sia da parte francese che da parte italiana, cioè quella di chiedere ai tedeschi di continuare a far finta di essere quello che erano, anche quando erano diventati un paese più o meno normale come il nostro o come altri paesi, altre nazioni europee. E questo scalino tra le nostre aspettative e gli interessi tedeschi è uno scalino che ancora non abbiamo mai completamente superato. L'atteggiamento della Germania, che in questa crisi ha detto: cari ragazzi, se voi truccate i conti non aspettatevi che noi siamo lì a colmare questo divario, dovete entrare nella nostra categoria mentale e nella nostra idea di politica monetaria. E anche qui però c'è una certa forma di idealismo tedesco, perché mai i greci non dovrebbero continuare a fare i greci o gli italiani continuare a fare gli italiani? In base a quale ragionamento? Se poi sanno che a un certo punto, volente o nolente, qualche entità superiore li salva. Si chiami Unione Europea, o più concretamente Germania, li salva. Siamo nell'ambito più ovvio del dare e l'avere, di uno scambio politico, in questo caso centrato sulla moneta. Ora, coloro che avevano fondato l'euro e che credevano in maniera commendevole alla possibilità di costruire sulla moneta addirittura uno Stato europeo, si devono in qualche modo rendere conto che quel tipo di ragionamento non ha funzionato e non può funzionare. Cioè l'idea abbastanza paradossale in sé, che non è lo Stato che batte la moneta, ma la moneta che crea lo Stato, si è rivelata infondata. Questo a prescindere dal valore dell'euro, dall'importanza dell'avere questa moneta, dal fatto che ci abbia difeso da molte crisi. Non sto discutendo qui la moneta in sé, sto discutendo l'idea di poter costruire una moneta e poi appenderla in qualche modo nell'aria, senza una politica fiscale, senza una politica di bilancio comune, senza, e anche questo è un tabù che in qualche modo forse dovremmo affrontare, nemmeno un vero e proprio mercato unico europeo, che è un mercato molto parziale in realtà. Ora, tutti questi dati sono di fronte a noi e dovremmo in qualche modo confrontarci e quindi decidere se elevare in qualche modo le istituzioni politiche a livello della nostra moneta oppure in qualche modo accettare l'idea che questa moneta può entrare in crisi e secondo alcuni può anche sparire. Io francamente continuo ad avere di fronte a me sotto gli occhi una politica, penso quella italiana, che non riesce ad abituarsi all'idea che una finanziaria si faccia come succede a Londra, come succede in altri grandi paesi, con un ministro dell'economia che viene con la sua valigetta e dice: signori, questi sono i saldi, e così è. E in Italia non si riesce a concepire questo se non come un esproprio del Parlamento. Quindi arrivare alla finanziaria europea per cui si decide tutto tra Bruxelles e con il placet di Francoforte, io stento a immaginarmela una cosa di questo genere, perché siccome la rappresentanza politica europea non c'è, questo è un edificio che resta aggravato da una cosa in cui le opinioni pubbliche, gli elettorati non vedono la rappresentanza e quindi nocciolo della sovranità e della democrazia lì, vedono delle cose lontane che scendono di lì, pressoché incomprensibili, che quindi i politici che beccano i voti con le opinioni pubbliche nazionali siano pronti a dire va bene, facciamo la finanziaria comune. Questo io non riesco ancora a vederlo nel futuro delle cose possibili. Magari sbaglio e poi Adriana Cerretelli ci darà invece, dopo la pubblicità, una sana doccia di altro realismo, quello osservando le cose da Bruxelles. Eccoci tornati in studio, l'Europa è finita, questo è partendo dal titolo del libro di cui sono autore Enrico Letta e Lucio Caracciolo, l'abbiamo sentito, le perorazioni, no, non è finita, ci ha detto Enrico Letta, insomma non dico che sia finita, ma certo non si può pensare che siamo l'Europa politica dietro l'angolo, l'ha appena ricordato con i suoi argomenti Lucio Caracciolo. Andiamo a tentare di fare una domanda a Adriana Cerretelli, ma a Bruxelles in realtà queste istituzioni, i vari Van Rompuy, i vari Lady Ashton, Barroso, la commissione che a me sembra proprio il vero nano di questa vicenda del 2010, come vivono e percepiscono e rappresentano, non nei comunicati ufficiali, quelli li leggiamo, insomma tutti quanti cooperiamo alla comunicazione ufficiale delle istituzioni europee da giornalisti, osservatori, ma in realtà standoci, vivendo, vedendoli nei corridoi e parlando davvero, si rendono conto di quanto la gente poi non li capisca oppure no? Io trovo che questa riforma del Trattato di Lisbona sia stata peggio che un flop. È un disastro dal punto di vista della struttura istituzionale che ha creato ed è un disastro dal punto di vista delle persone che ha scelto. Ashton, Van Rompuy, Barroso sono ormai delle marionette in mano dei governi. Diciamo che Bruxelles ha perso l'iniziativa. Però voglio essere chiara, anche ai tempi dell'Europa di Delors che si decanta da mattina a sera, l'iniziativa di Delors era possibile perché dietro aveva dei leader politici con le Mitterrand che glielo consentivano, però la commissione era diversa, aveva un orgoglio istituzionale che si è perduto. Van Rompuy è il segretario dei governi di un'Europa intergovernativa. Quindi diciamo la percezione della gente, ma anche la percezione di Obama, pare che Obama quando è venuto a Praga al vertice della, subito dopo il vertice della NATO 2 anni fa, non sia venuto poi a Bruxelles e diciamo nei quartier generali europei, semplicemente perché non sapeva, cioè non capiva niente di questi europei, della moltiplicazione degli interlocutori nulli, inesistenti, irrilevanti, perché quando uno vuole parlare con l'Europa oggi parla con la Merkel, non parla con nessun altro. Quindi questo è sicuramente uno dei grandi problemi, cioè uno dei grandi problemi. In fondo se Lisbona è una non riforma o una riforma pateracchio è perché è lo specchio di questa Europa, perché le riforme non nascono dal nulla. E quindi di qui arriviamo alla domanda: l'Europa è finita o non finita? L'Europa rischia di finire, questo è sicuro. Dove potrà andare? È una domanda secondo me difficilissima a cui rispondere oggi, perlomeno nel mio caso. Però a me ha molto colpito per esempio quello che mi diceva un americano tempo fa: secondo le proiezioni prevalenti, diciamo di qui a 30-50 anni il PIL europeo rischia di crollare al 15% del PIL mondiale, mentre quello americano dovrebbe restare il 30% di quello mondiale. Cioè, già questo dato la dice tutta, direbbe, diciamo per dirla con Enrico Letta, che l'Europa avrebbe bisogno di essere Europa, di sfruttare l'effetto di invenzione del proprio mercato, della propria storia, della propria cultura, per diciamo tenere la sfida mondiale. Invece questa Europa, da quando è caduto il muro di Berlino, da quando il mondo si è aperto, globalizzato, e da G8 è diventato G20, questa Europa è diventata sempre più irrilevante, non conta nulla. Il fatto che, non so, io partecipo regolarmente da anni e anni anche ai G20 e ai G8, e devo dire che è impressionante quanto noi non esistiamo, ma non esiste neanche la Merkel. E qui vengo allora al discorso che facevate voi. Cioè, questa Germania è cambiata, è logico che sia cambiata, è giusto che sia cambiata, ma questa Germania è a sua volta lo specchio di un'Europa intorpidita, vecchia, incapace di mettersi al passo col nuovo mondo. In fondo l'euro è nato immediatamente, subito dopo la caduta del muro di Berlino, nel momento in cui ancora Andreotti poteva dire: sono felice che amo talmente la Germania che ne voglio due, ce ne sono due, che ce ne siano due. Era quello lo spirito con cui è nato l'euro. Nessuno aveva capito niente, ma nemmeno Kohl, nel momento in cui aveva dato come moneta di scambio il marco. Allora oggi siamo un po' alla Red Rationem. La Germania è delusa, dice: ma questi europei sono europei. Bella scoperta, lo sapevamo che erano europei. E gli europei dicono: ma questi tedeschi sono tedeschi. Certo che sono tedeschi. Allora, qual è il futuro? Secondo me, di quel che resterà dell'Europa, probabilmente sarà un'Europa tedesca. Nel senso che prima o poi ci sarà una contro e dice: tu stai con me o sei contro di me? Beh, allora esci. In fondo ci hanno provato anche con la Grecia, e c'è stato Trichet che ha detto: no, l'euro è una scelta di vita. E ha ragione, perché Trichet è un uomo vecchio stampo, è l'uomo della vecchia Europa. E io con questo non voglio dire che il credo europeista di una volta è un credo stupido, e che il credo europeista di una volta sia inadeguato ai tempi attuali. Anzi, io dico che se non ci fosse stato quel tipo di credo integrazionista, eccetera, eccetera, l'avremmo dovuto inventare oggi. Il problema è che non ha funzionato. Non ha funzionato quando il mondo era bloccato, e oggi che il mondo è mobile ci sono paesi, appunto come la Germania, che dicono: beh, ma io tiro dritto per la mia strada, perché devo pagare per questi straccioni che per di più sono degli imbroglioni? E la Germania la si può capire. D'altra parte gli imbroglioni e gli straccioni dicono: ma si può sapere perché devo avere i conti più rigorosi del mondo, quando lo stesso Obama cerca di stimolare la domanda in un certo modo, perché devo avere le mani legate? E in questo modo, siccome i divari accumulati dentro l'euro sono divari non solo di competitività, ma sono divari culturali che sono rimasti intonsi semplicemente perché si pensava di poter andare avanti così, allora tutto questo rischia di diventare totalmente ingovernabile. La finanziaria europea di cui si parla, ma altro non è che la solito passo a metà dell'Europa, è l'idea di dire: prima di scrivere il bilancio facciamo vedere quali sono le nostre idee, ma tutti si guardano bene dal dire che possa diventare una finanziaria europea. Naturalmente la logica dice: sì, vabbè, ma a piccoli passi ci arriveremo. Sì, quando? Nel 2050, quando non esisteremo più. Perché oggi, a prescindere dagli inglesi che dicono giù le mani dal bilancio del Parlamento, ci sono mille altri paesi che non vogliono naturalmente che l'Europa, cioè non l'Europa, la Germania interferisca nei propri conti, perché dice: già abbiamo le mani legate, cosa facciamo? Ce le leghiamo ulteriormente? E chi aggrega il consenso? Chi vince le elezioni a quel punto? Come si manipolano i conti in questo senso? Quindi c'è di mezzo la democrazia, cioè, allora a quel punto dice: che facciamo? Un'Europa tutta solo tedesca? Molta gente, cioè proprio durante questa crisi, io ho sentito dei greci, ma dei greci, voglio dire, non, cioè, gente di un certo livello culturale, che diceva: ma insomma, si può sapere perché noi dobbiamo diventare tedeschi? Perché il mio deficit deve essere al 3%, non può essere al 6%? Chi l'ha detto? Mi pare che queste domande che Adriana ripropone, facendole rimbalzare da più degli interlocutori con cui ho avuto a che fare durante l'eurocrisi, siano domande che io vedo nelle reazioni degli sms che mi appaiono qua sullo schermo. C'è chi ricorda, secondo me ha ragione, che se noi dobbiamo pensare a uno sviluppo di anche di un nocciolo duro che condivide una regole politiche e limiti e paletti condivisi più stringenti di un'Europa tedesca, come ci diceva adesso Adriana Cerretelli, e come in definitiva propone, ci torneremo sopra con Enrico Letta, anche Enrico Letta propone che siano i sei paesi fondatori più altri tre o quattro a fare questo nocciolo duro, e molti tra i nostri ascoltatori dicono: beh sì, basta che sia chiaro cosa vuol dire in Italia, che in questa Europa, tra virgolette, tedesca, stretta, con regole politiche condivise, ci entra l'Italia del nord, fino al Po, sotto, ma sì, Toscana, Emilia Romagna, va bene, ma poi il resto non ci entra con quei parametri, e non si capisce anche quale sia l'utilità, viste le sue condizioni, di immaginare che il resto continui a pagare per lei per politiche che da 40-50 anni a questa parte, le politiche di coesione europee, lì non hanno spostato uno 0, di PIL come contributo a quello nazionale. Moltissimi ascoltatori che fanno osservare questo, secondo me, toccano un punto vero, perché poi, come sempre, attenti a pensare che qui stiamo parlando di un'Europa lontana, oggi non stiamo parlando di politica, poi stiamo parlando delle due Italie, come sempre, perché noi siamo attraversati dentro da questa irriducibile diversità nel nostro confine. Sentiamo un po' di voi come la pensano. Cominciamo con Renato da Torino. Prego Renato. Pronto, buongiorno, stavo ascoltando la trasmissione. Io volevo soltanto dire che secondo me l'Europa è una scelta obbligata, che indietro non si può tornare. Perché se dovessimo tornare alle valute nazionali, chi metterebbe i propri risparmi nelle valute nazionali? Cioè, lei direbbe la liretta, che molti rimpiangono, i titoli col debito pubblico della liretta, dobbiamo pagare gli interessi molto di più. Sì, ma infatti se lei si ricorda, io credo che l'euro sia il figlio della crisi del 92, perché nel 92, quando successe il patatrac, tutti si accorsero che le valute non valevano niente e si andò a una valuta unica, secondo me, dopo quella crisi, perché nel 92 la gente cominciò a comprare titoli in marchi tedeschi, il marco tedesco sfondò le 1.000 lire e sarebbe andato a 2.000 o 3.000, io non so quanto sarebbe il marco adesso se non ci fosse. Non c'è dubbio, però Renato, io ho l'obbligo di dirle che valute che valgono poco e che si deprezzano rapidamente fanno interessi anche di alcuni interessi. Attenzione, non solo si esporta meglio, ma la rapida svalutazione di una valuta in realtà fa un piacere a chi è molto indebitato, tanto per dirne uno. E quindi attenzione, perché il ritorno a valute deboli, che è una politica sbagliata, però serve in momenti storici a volte a risolvere grandi problemi accumulati, invece che con il rigore e scelte serie, attraverso discontinuità temporali. La svalutazione monetaria è una di queste, classicamente, e quindi molti la invocano anche per quella, eh? Non si tratta solo di ignoranza economica. Sentiamo Gianni da Roma, come la pensa. Gianni, dica. Buongiorno Giannino. Dica. Volevo parlare dell'Europa e dei suoi confini. Prima volevo esprimere il mio parere sulle conclusioni che immagino dell'Europa. L'Europa si farà. Si farà nell'era di Obama. Quindi negli 8 anni, no, i 4 anni. Perché l'era di Bush non voleva un'Europa politica. Senta, attento, prima di dire 8 anni, vediamo come va il midterm, che mi paiono che i sondaggi americani per il momento non sono molto ben meno. Comunque lei dice 8 anni Obama e lì si fa, perché? Sì, si farà perché è inevitabile, perché grazie a Prodi noi avevamo la rilevanza, e con l'euro, che tutti dicevano una moneta virtuale, oggi le transazioni mondiali, che prima erano il 100% in dollari, stanno lievitando verso il 50% dei paesi arabi, cercano di farli in dollari. No, sia corretto, non c'è nessun 50%, perché il dollaro resta espressione di 2/3 delle riserve e il mercato in cui sono denominate tutte le commodity. Se noi facciamo una radio economica, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori le cose come stanno. Il suo è un auspicio, gli auspici ci sono, è chiaro, l'euro è entrato nei panieri delle valute di riserva, la Cina stava muovendosi verso una diversificazione, pur essendo titolare praticamente di 3.000 mila di un trilione di dollari in alto, però poi c'è andata piano visto la crisi dell'eurodebito. Quindi insomma, diciamo, è un processo lungo, ma questa era solo la premessa. Rapida conclusione, Gianni. Un processo lungo, mi perdoni Giannino, che iniziavamo da zero. Sì, sì, per carità. Da zero, con una moneta che era virtuale, e Prodi diceva: vedete che quando circolerà l'euro nelle tasche degli italiani, il mondo capirà che cos'è l'euro. E la storia non si fa a giorni, né a decenni. Certo. La storia si fa per moltissimi anni. Poi l'Europa dipende dalla classe politica che ci rappresenta, e oggi, puntini puntini, la classe politica europea è quella che non vado nei dettagli. Ma lei può non andare nei dettagli, però è un fatto che il Belgio è a pezzi, l'Olanda sta come sta, Sarko e i minimi storici, il Zapatero per via di quello che è successo, oppure lui. In Italia non mi pare che ce la passiamo molto bene, però bisogna fare i conti con la politica che c'è, e quindi sa, se la politica è questa e resterà un po' per annetti questa qua in Europa, come si può immaginare, continuare a dire tornino call eccetera? E bisogna, io proprio per questo sono un po' della tesi, per capire, Lucio Caracciolesca, ecco. Sentiamo ancora rapidissimamente Giuliano da Como, che pensa Giuliano? Buongiorno. Dica. No, io mi chiedo a volte come non si possa avere dei dubbi e nutrire il pessimismo sulle sorti di una moneta che è fatta da nazioni diverse per razza, lingua, cultura, nazioni che tra l'altro sino a ieri non si prendevano a sberle perché erano troppo occupate a tirarsi cannonate, fino a ieri questo, e che ha come contralto il dollaro, che con il signoraggio che ha e che gode da più di mezzo secolo, voler mettere in dubbio poi anche questo signoraggio potrebbero aprire degli scenari anche abbastanza inquietanti. Grazie. Grazie Giuliano. Ultimo ascoltatore per oggi, Walter da Pesaro. Rapido, Walter. Sì, buongiorno. Perché con tutte queste debolezze dell'euro l'euro stesso è così forte sul dollaro? Ma caro Walter, quando Adriana Cerretelli ricordava, ma perché i miei amici greci dicevano, ma perché devo vincolarmi a una politica di rigore finanziario germanico, per capirci, quando poi Mr. Obama continua ad accumulare deficit e debito pubblico per sostenere la sua economia in America, in questa settimana, di fronte al raffreddamento del tasso di ripresa economica, si sta aprendo un grande dibattito su una nuova manovra di deficit pubblico, sostegno dell'economia. E lei capisce che quando nei flussi il debito pubblico americano, che ha anch'esso una contabilità, mi permetto di dire, a proposito dei trucchi, molto discutibile, perché dovete sapere che nel debito pubblico, secondo le statistiche federali americane, non comprende per esempio tutte le garanzie che sono pubbliche su veicoli tutti pubblici come Fannie Mae e Freddie Mac, non lo trovate, e sono 7-8 mila miliardi di dollari solo quello di debito pubblico aggiuntivo. Aggiungo, non ci sono tutte le garanzie, tutte pubbliche, sulla sanità, sui programmi di sanità pubblica americana. Questo nel debito pubblico americano non lo trovate, e quindi un debito pubblico che era a fine 2009 ufficialmente ancora sotto il 60% del GDP del PIL, in realtà se si inglobano queste robe già si sfiorava il 90% e rapidamente crescerà molto nei prossimi anni. Allora, di fronte a questo, il dollaro inevitabilmente sui mercati internazionali va rispetto all'euro, come lei ha ricordato, dopo le settimane in cui per la crisi dell'eurodebito l'euro era in discesa e ha potentemente rilanciato le nostre esportazioni, l'euro è tornato a riapprezzarsi, ma deriva dal fatto che, passata la grande paura che però può ripresentarsi sulla tenuta dei titoli pubblici di alcuni paesi dell'euro, in definitiva l'America continua a fare deficit aggiuntivo. Nel breve i mercati dei cambi si rialineano su questo. L'Europa è finita, questo è il titolo del libro, Enrico Letta e Lucio Caracciolo, che si incrociano insieme con l'aiuto di Adriana Cerretelli, ospite anche lei qui. Su questo interrogativo leggo Enrico Letta un passaggio che mi ha molto colpito del penultimo intervento nel libro di Lucio Caracciolo, che a un certo punto gli dice così testualmente: ascoltandoti e conoscendo il tuo carattere moderato, mi colpisce, caro Enrico, l'impronta rivoluzionaria del tuo ragionamento, perché quando parli di Europa mi sembri un bolscevico che si augura che la crisi finanziaria finale del capitalismo diffonda nelle masse la consapevolezza dell'oppressione di classe, spingendole così ad affidarsi al partito per conquistare il socialismo, perché questo è il destino dell'umanità, scoperto da Marx. Sostituisci Europa al socialismo, continua Lucio Caracciolo, e hai il ritratto dell'ideologia europeista. Ora, io non credo che la crisi che stiamo vivendo renda gli europei più consapevoli della necessità dell'Europa. Però il tuo ragionamento, dopo aver un po' schiaffeggiato così Enrico Letta, Lucio Caracciolo diceva: è interessante. Allora, per evitare di cadere nell'impressione di sembrare appunto un vecchio bolscevico che spera che ci sia la rivoluzione, concretamente Che cosa, secondo lei, potrebbe indurre a tornare a un nocciolo duro dei sei fondatori più altri 3-4 al massimo paesi, cioè una restrizione in realtà del confine dell'Europa politica piuttosto che l'ampliamento della prospettiva 27 che l'ha indebolita? Ma secondo me, per la domanda che lei ha fatto all'inizio della nostra trasmissione, qual è l'interesse con i quali i tedeschi possono capire che invece di stare da soli devono fare l'Europa, visto che non hanno più il dovere morale del dopoguerra? E l'interesse è dato dai numeri. Primo dato, la Germania, se nel 2020 si stilasse la classifica del G7 ipotetico del 2020, la Germania non ci sarebbe fuori dalle prime sette economie mondiali. Secondo, la Germania ha pagato la crisi duramente, è stato il paese che l'ha pagata più duramente, poi dopo sono venuti altri, Italia compresa, ma la Germania è scesa più del 6% nel momento della crisi, quindi un colpo molto pesante e duro. Terzo, la Germania non sarà mai una potenza militare per i mille motivi che abbiamo dietro le spalle, quindi la Germania ha bisogno dell'Europa in un mondo nel quale comunque la proiezione esterna, e lo vediamo ogni momento quanto conta comunque la dinamica internazionale anche dal punto di vista militare, Afghanistan, Libano sono dietro l'angolo. Quarto punto, può sembrare banale ma non lo è, se dentro l'Unione Europea entrasse, come io auspico, la Turchia, nel 2020 per i flussi demografici la Germania non sarebbe il paese più grosso d'Europa, ma lo sarebbe la Turchia, e anche soltanto banalmente dal punto di vista dei numeri del Parlamento europeo questo toglierebbe alla Germania lo scettro. Questi sono dei passaggi molto netti che dimostrano come anche la Germania da sola non va da nessuna parte. Ecco perché bisogna andare verso quel passaggio definitivo. Quel passaggio definitivo oggi la crisi lo può accelerare, anche per gli argomenti che usava Adriana Cerretelli prima. Noi europei, senza quel passaggio in avanti che soltanto i paesi dell'euro, questo è il nocciolo duro, soltanto i paesi dell'euro possono fare, è un passaggio che secondo me può avvenire, perché l'alternativa, perché io penso che quando si ragiona sulle cose bisogna sempre ragionare sull'alternativa, quindi io accetto ovviamente le critiche di Lucio, le critiche di Oscar, le accetto, il problema è, secondo me, ed è il motivo per il quale io mi approccio a questi temi in modo così rivoluzionario, qual è l'alternativa? Io l'alternativa non la vedo, l'unica possibilità per noi è fare il passo in avanti, sapendo che le opinioni pubbliche sono oggi molto molto più attente di ieri, hanno capito che la crisi ci può portare malissimo, ci ha portato malissimo, e poi le opinioni pubbliche oggi in Europa sono più giovani, sono opinioni pubbliche che hanno due parole in testa, sono cresciute con due parole in testa, Erasmus e Ryanair. Sono ovviamente due simboli quelli che sto usando, ma per capirci, cioè due parole che dimostrano come quando io ho fatto la tesi di laurea sulle questioni europee per andare a Bruxelles 20 anni fa il volo mi costava più di 1 milione di lire, oggi si gira per tutta Europa grazie alle low cost e i giovani oggi hanno opportunità grazie a quello, l'Erasmus e tutto il resto che prima non avevano. Chiudo su un passaggio chiave che ha posto Oscar Giannino. L'Italia ha due velocità. Sì, questo secondo me è il punto chiave, cioè il fare un'Europa che sia l'Europa unita dei paesi oggi dell'euro, e tra l'altro un inciso perché Cerretelli citava Trichet, noi dobbiamo molto alla generazione dei Ciampi, dei Prodi, dei Kohl, dei Mitterrand, oggi del Trichet che è l'ultimo di quella generazione, e io sono spaventatissimo all'idea che il successore di Trichet sia uno che non è all'altezza di quel compito, perché quando sento la candidatura dell'attuale governatore della Bundesbank vengono i brividi, e sono tra quelli che spera sempre che ci possa essere invece una continuità, magari italiana, in linea con l'idea di Trichet. Totalmente d'accordo, devo interrompere Enrico perché volevo una battuta anche dagli altri due ultimi ospiti. Io mi auguro che non sia davvero il governatore della Bundesbank il candidato. L'Italia ha un ottimo candidato, ma non è questione di campanilismo, è una questione proprio di visione, anche perché la parte meno ancora chiarita del problema bancario da cui la crisi nasce e sta tutta ancora negli attivi bancari della Landesbank tedesca. Quindi su questo la Germania non ha affatto né pulizia né rigore a casa sua sugli attivi bancari, e anche gli stress test, siamo a Radio 24, ricordiamolo, bancari europei, hanno avuto una presa per i fondelli, se mi passa questa espressione, proprio in Germania, visto che gli istituti di credito ammessi agli stress test, che tanto hanno rassicurato i mercati, non hanno inglobato nella simulazione per la parte dei loro attivi patrimoniali i titoli del debito pubblico che hanno in pancia. E quindi questo vuol dire che talvolta i tedeschi, quando conviene a loro, cioè nelle loro banche, nel sistema bancario troppo pubblico e molto malandato, la verità e la trasparenza non ce la danno neanche loro. Lucio Caracciolo, lei nel concludere una delle sue ultime interventi nel libro dice: se l'America e se l'Europa non è più, e oggi non è considerato benessere e neanche troppo pace, questo mi ha colpito, perché dovrebbe piacere? Benessere è evidente, c'è la crisi e le divisioni interne, perché lei dice anche pace? Perché l'Europa non dovrebbe essere più associata a questo? Beh, perché dalla caduta del muro di Berlino in avanti intanto abbiamo avuto una guerra molto sanguinosa in Europa, parlo delle guerre ex jugoslave, e poi perché se noi non facciamo uno Stato europeo, che sarebbe la logica e normale conseguenza di una moneta, o meglio, normalmente avrebbe dovuto precedere la moneta, ma ormai non si può non farlo, e la conseguenza è quella che si faranno tanti, molti altri stati dentro l'Europa e forse anche dentro l'Italia, perché semplicemente non ci sono più quelle convenienze che prima si volevano in qualche modo attribuire all'Europa. Su un punto credo che tutti i leader europei sono purtroppo d'accordo, che non bisogna fare uno Stato europeo. E allora di che cosa stiamo parlando? Vogliamo continuare a tenere questa moneta semplicemente per stabilire chi pagherà la prossima crisi, se la pagheranno di più i tedeschi, i greci o gli italiani? Ecco, domanda, aspetta, domanda per Adriana a questo proposito. Invece dell'Europa, qui il rischio, il Belgio ci consegna questo, in Italia ce ne occupiamo poco, ma insomma lì il rischio che davvero la gente per le strade si inizi, non dico a picchiare, ma poco ci manca dalle cronache che leggo, e che vada in pezzi il presidente di turno dell'Europa, eccetera, eccetera, e che sia una tabe che si estenda in Europa, a me non sembra così utopico. Tu che pensi stando là? Ma io penso che il Belgio per certi aspetti è un caso a parte, nel senso che è un paese dai 3200 compromessi dove le tensioni ci sono, ma ci sono a fasi alterne, e poi però si ha paura di dividersi. È chiaro che ogni volta si va avanti si è sempre un po' più sull'orlo del precipizio. Però è vero tutto quello che si dice, è vero che diciamo in questa Europa che si fragilizza è più facile dividersi, però io sono sempre lì è come con la Germania, è chiaro che la Germania vuole un'Europa tedesca, ma può diciamo il suo risorto nazionalismo arrivare al punto di dire questa Europa non mi interessa? Non lo so, su questo interrogativo ci conviene chiudere, perché oramai sono le 9.59 e 27 secondi. La mia risposta è sì, può avvenire un trauma che fa saltare l'elemento interrogativo, e credo che in quello scenario si frazionino anche i paesi, e questo problema riguarda in prima linea l'Italia, che ha inefficienze pubbliche di un apparato pubblico di intermediazione, non solo diverse produttività delle economie private, intollerabilmente separate. Quindi io credo che il problema dell'Europa vi riguardi tutti, a voi in ascolto, che forse oggi avete pensato che stavamo divagando. No, è il problema dell'Italia che si spacca, e non è detto che molti di voi non pensino che sia un bene. Appuntamento a lunedì, grazie regia a Roberto Scaltriti e in redazione Alessandro Marco Tulli, linea del Giornale Radio.